non penso si sia trattato di cambiare per cambiare. Quindi in realtà penso che nel libro ci sia una strana continuità con la solitudine dei numeri primi. Però sicuramente ho cambiato molto contesto. La scelta è ricaduta alla fine sull'Afghanistan e su questa base militare isolata. Penso per un mio bisogno di forte chiarezza. Questo luogo isolato, abitato da ragazzi della mia età, in cui la cosa sorprendente era il modo con cui le umanità delle singole persone venivano fuori, con una brillantezza che qui, diciamo, nella vita comune, è sempre molto offuscata. E invece in quel luogo desertico, solare, era come se d'un tratto io riuscissi a vedere in modo evidente molte cose di cui volevo parlare. Perché volevo parlare di ragazzi della mia età, quindi sulla soglia dei 30, volevo parlare di quel passaggio. Eppure non riuscivo mai a trovare una chiave e l'ho trovata lì proprio in un contesto molto alieno, proprio perché questa base offriva quasi un laboratorio di osservazione straordinario per le stesse dinamiche della mia vita anche.